ringraziamo tanto perché la biblioteca vuole creare veramente l'abitudine alla frequentazione, l'abitudine alla lettura, l'abitudine anzi ad essere curiosi di tutto quello che può interessarci per aprirci dei nuovi orizzonti, per invogliarci a leggere delle cose nuove, informarci, mantenerci in poche parole vivi, no? Da un punto di vista culturale, sociale e anche emozionale, perché alla fine anche un'informazione, una cosa nuova è sempre anche un'emozione che ci spinge a cambiare delle abitudini. Io vi saluto, vi ringrazio di essere così numerosi, saluto anche le colleghe dell'ufficio bilinguismo che ci ospitano, perché come sapete la nostra biblioteca è ancora in una fase così embrionale, che cerca una sede definitiva, la riceverà fra poco tempo, ma nell'attesa non vogliamo rinunciare a queste occasioni straordinarie di incontrarci e di incontrare sempre nuovi relatori. E quindi veniamo qui al Centro Trevi, a volte siamo, quindi vi avviso subito, sarà un giochetto, un indovinello ogni volta, perché o siamo sopra, dove ci siamo abituati ad andare l'anno scorso, o saremo qui, oppure nella sala colonna come la settimana scorsa, che è praticamente dove c'è accanto alla mediateca. Ecco, è un modo per ritrovarci. Abbiamo iniziato da pochi giorni le nostre attività, la scorsa settimana ha aperto le danze Loredano Pucci con il suo nuovo thriller cibernetico, questa settimana iniziamo appunto con il procuratore capo, il dottor Edoardo Mori, persona notissima qui a Bolzano e non solo, che ha dato un contributo al mondo della giustizia notevole, ma anche al mondo culturale, dove è ancora attivissimo, e quello editoriale, ha una produzione editoriale di tutto rispetto e soprattutto anche di elevata qualità. Lo conosciamo anche come persona veramente dedita e attiva nell'ambito culturale. Già anni fa, parecchi anni fa, purtroppo, è passato un po' di tempo intanto, era venuto nella nostra biblioteca, ancora nella sede di Via Mendola, ad accompagnare la presentazione di Cagnan Paolo col suo libro sui delitti irrisolti in Alto Adige. Era stata una bellissima serata con tanti casi molto difficili che erano stati presentati, e lo abbiamo oggi invece proprio come relatore, come presentatore della propria produzione editoriale, ed in particolare il libro sarà quello dedicato a Guicciardini. Eccolo qui, ricordi. Che cos'è questo libro? È la traduzione in italiano dei ricordi, tanto vado avanti, e la versione in lingua italiana moderna a cura di Edoardo Mori, con il testo originale a Mori. Guicciardini è uno storico filosofico, così definito, ma anche politico, ed è un giurista della Firenze rinascimentale, quindi ci stiamo spostando indietro di parecchi secoli in una situazione anche per certi versi diversa, ma leggendo queste pagine quello che stupisce non è solo la straordinaria traduzione che ha fatto il dottor Mori, ma anche il fatto di aver scelto questo testo e di riproporlo, perché è di un'attualità strepitosa, ecco. veramente, sì, alla fine uno dice, vabbè, saranno passati anche 400-500 anni, ma poi di fatto non sempre è. Quindi si fanno anche tante rivoluzioni e poi alla fine tutto rimane come prima. Non è un messaggio negativo, quello che si vuole dare chiaramente, però è molto curioso ritornare a volte indietro per vedere come la storia ripropone, e anche la società ripropone alla fine spesso degli schemi che, se si conoscessero un pochino meglio, servirebbero forse anche ad evitare o ad aggiustare il tiro in alcune situazioni, in alcune difficoltà che inevitabilmente si ripropongono. Bene, lascio la parola al nostro ospite, che ringrazio tantissimo. Grazie per aver scelto la Biblioteca Provinciale, per essere di nuovo con noi. Vi ringrazio tutti, abbiamo una bibliografia, abbiamo tanti appuntamenti ancora, ci sono le cartoline, ogni lunedì e giovedì facciamo qualcosa qui al Centro Trevi, quindi alle ore 18 sapete che se venite qui noi presentiamo qualcosa. Il martedì pomeriggio facciamo un corso gratis dalle 15 alle 16 e partiamo domani per imparare ad usare BiblioWeb, quindi chi è interessato a capire come si scaricano dei ebook gratuitamente anche la casa propria, può venire e telefonare e lasciare il proprio. Anche questo si può scaricare? E si può scaricare. Grazie. Siamo avanti, qui c'è la versione cartacea, ma c'è il dottor Mori è andato anche oltre e per diffonderlo sempre meglio ha usato anche il sistema dell'ebook. Grazie ancora. Grazie a lei. Buona serata a tutti. Buonasera a tutti. Prima parlo un po' di me, che è giusto anche, per spiegare perché mi sono dedicato a questa materia. A parte che io mi sono dedicato un po' a tutte le materie, però ho letto migliaia e migliaia, penso che avrò letto almeno 50.000 libri senza problemi. Ho sempre letto per studiare, per imparare e per trasmettere, perché cultura è trasmettere, e diceva Prezzolini, se uno tiene le cose per sé è un erudito, ma non serve a niente. Io ho fatto questo libro sui brocardi latini per gli studenti dell'università, gli serve moltissimo. Ho fatto il codice delle armi per la polizia, carabinieri, cacciatori, perché nessuno ci capiva niente. Ho fatto il libro sul naso chiuso per servire alla gente dell'Alto Adige, che non c'erano, stranamente nell'Alto Adige non c'era un libro sul naso chiuso, e così tanti altri libretti che ho fatto, sempre con uno scopo utilitario. E l'ho sempre dato, come diceva, sempre gratis in internet, perché intanto ricordatevi, se qualcuno ha voglia di scrivere, che l'autore non guadagna nulla. Scrivere un libro serve solo per far guadagnare l'editore, se ha l'occhio buono, e ho preferito non far guadagnare, dare i libri gratis. Mi sono sempre appassionato per tutta la vita all'umanesimo, al rinascimento e all'illuminismo. Per quale motivo? Perché era l'epoca in cui più si sono espresse le persone intelligenti e quelle che controcorrente, e molte volte bisogna un po' abbandonare gli schemi tradizionali, perché gli schemi tradizionali possono essere utili ma possono essere anche delle palle al piede. Quindi gli uomini intelligenti sono sempre apprezzabili e bisogna conoscerli. Uno di questi senz'altro è stato il Guicciardini. I libri del Rinascimento italiani sanno questo, perché uno se legge Montaigne francese dice guarda che bello stile, e invece i libri italiani dopo il Boccaccio, dopo Dante eccetera, sono, dopo si può arrivare fino all'epoca di Lorenzo il Magnifico, poi sono peggiorati notevolmente, perché vi è stata quella tendenza a voler imitare assolutamente lo stile latino che ci ha completamente rovinati. Perché lo stile latino, avendo i casi, poteva fare delle frasi concise e poteva mettere le parole in qualunque posizione, quindi è facile fare una frase breve quando la stessa posizione della parola serve ad alzare o abbassare il tono della parola nel contesto. E invece nel linguaggio italiano hanno cominciato a voler collegare tutte le frasi con quindi, dunque, infatti, per questo motivo, per ciò sia fosse cosa che, e frasi assolutamente mostruose. Vi ricorderete l'esempio famoso del Davanzati, che cercò di tradurre Tacito e voleva farlo più breve del testo latino. Ha fatto una cosa che, sicuro, io una volta ho provato a leggerlo, era molto più facile leggere il latino. E tante volte col Machiavelli, anche Machiavelli c'ha questo stesso difetto, il Principe, guardate che è duro da leggere, cioè mi sono dovuto fare fatto la fatica a leggerlo. Di solito poi quando sono proprio disperato vado a vedere una traduzione francese, perfette, si leggono, che è una meraviglia. Guicciardini, no, Guicciardini è stato scoperto un po' tardi, quindi è stato anche poco tradotto. Per esempio in Germania, nonostante la sua importanza, ho trovato un'unica traduzione del 1942, altrimenti è citato sempre, ma nessuno l'ha mai tradotto. In francese anche lì c'è una traduzione molto antica e nulla di importante, e quindi il povero italiano che voleva capirlo o aveva fatto un liceo con quelli di una volta, dove si leggeva, siccome vi ricordate, no, siete troppo giovani, e vi ricordate che sì, io ho cominciato leggendo in prima media l'Iliade tradotta, che è da Vincenzo Monti, o Pindemonte, no, da Pindemonte mi pare, poi dopo l'Eneide, poi l'Odissea, tutti tradotti in poesia antica. È chiaro che quando si arrivava al liceo ci si era fatto l'orecchio a questo linguaggio, quindi non c'ho problemi. Ciò nonostante, questo Guicciardini, che faceva dei testi per i nipoti suoi, dei quaderni che loro avrebbero dovuto imparare a leggere se avessero dovuto fare politica, usa un linguaggio anche abbastanza familiare con dei termini che hanno cambiato completamente significato, per cui c'è da prendere anche delle cantonate, perché si pensa che dica una cosa. Devo dire che su questo punto ve lo faccio vedere per chi volesse proseguire gli studi. Fortunatamente di recente è uscito questo libro di Carlo Varotti, proprio uscito mi pare l'anno scorso, è uscito l'anno scorso, il quale ha preso le tre versioni, due versioni e mezzo, diciamo, le tre versioni dei ricordi, ha pubblicato l'ultima come testo base, poi ci ha annotato tutte le varianti, dando anche delle spiegazioni. Chiaro che mettendo insieme tre testi diversi, con leggere modifiche e con le spiegazioni, si riesce a capire molte cose che potevano fuggire. Mi ha salvato da cantonate almeno 10 volte e lo ringrazio pubblicamente. Dicevamo, quindi eravamo rimasti alla lingua dura di quest'epoca, ho pensato che, data l'importanza culturale di questo libro, fosse una cosa opportuna anche per gli studenti averlo in forma leggibile. Non cambia nulla, perché i francesi, tutte le opere italiane l'hanno sempre studiate nella loro lingua, sono andati benissimo, i tedeschi lo stesso. Sarà difficile tradurre Dante e le poesie, ma quando si tratta di un testo di pensiero conta il pensiero e non la forma, quindi andiamo tranquilli, non abbiamo nessun problema. Direi che non vi parlo della vita del Guicciardini, salvo per dirmi una cosa, che è stata una persona molto importante, ha lavorato per due papi, come confaloniere, che in pratica era, come dire, ministro della guerra, ministro dell'interno, era poi il prefetto, era una persona, subito dopo chi comandava veniva il confaloniere, che infatti poi, se non era già nobile, poteva acquisire anche titoli di nobiltà. Ha lavorato bene, con soddisfazione sempre delle persone con cui ha lavorato. Ha avuto il grande merito, riconosciuto da tutti, di essersi conservato una persona onesta. E lo dice lui stesso, qualcuno dice: ma perché tu hai servito, tu che non sei molto religioso, hai servito due papi, tu perché ti sei mescolato in queste questioni politiche? E io ho detto: io ho fatto il mio dovere di uomo, li ho serviti fedelmente perché avevo il dovere di fedeltà, ma vi posso assicurare che non mi sono mai sporcato le mani. Ed è vero, infatti era stato mandato a governare la Romagna dal Papa, e è indiscusso che la Romagna in quel periodo è stata una terra fortunata e felice, senza persecuzioni, senza assassini, senza lotte eccessive. È stato un ottimo governatore, quindi diciamo era un uomo di carattere, capace, che sapeva quello che faceva e che sapeva regolarsi nelle cose della vita. Queste cose le ritroverete nella piccola presentazione, dove ho parlato proprio di questo problema della lingua. E siccome trovo stupido mettermi a scrivere cose intelligenti, che cercano di essere intelligenti io, quando un altro l'ha già scritta meglio, ho copiato quello che ho preso, un capitolo scritto da Prezzolini, l'ho messo in appendice, perché Prezzolini, che è un altro dei nostri maestri di pensiero, ha saputo condensare in due paginette proprio tutto ciò che c'è da dire su Guicciardini come importanza e ciò che lo distingue dal Machiavelli. E possiamo arrivare a questo aspetto, non che sia importante, perché erano amici, ciascuno quando scrive tiene presente l'altro. Guicciardini non cita mai Machiavelli, dice quello, però si capisce, si sa benissimo che parla del Machiavelli, ma si rispettavano assolutamente, però avevano concezioni assolutamente diverse. Il Machiavelli era un teorico, in sostanza, che ha cercato di fare una teoria dello Stato, come lui la vedeva, basata sul modello romano, per esempio. E quindi, opera importante, opera che è servita di guida a molti politici in futuro, politici magari non proprio onesti, perché appunto lui insegnava anche che c'è il risultato che conta, tutto il resto poi le cose si aggiustano. Non è che i politici moderni facciano molto, molto di diverso, comunque all'epoca, perché il Rinascimento è così importante anche per il pensiero? Perché è il periodo in cui l'uomo riesce a staccarsi dal dogma, cioè per tutto il Medioevo non c'è teoria fisica, scientifica, filosofica che non dovesse fare riferimento al cielo, a Dio, all'ente superiore, quello che fosse. Quindi era sempre un ragionamento forzato, perché c'erano dei paletti talmente fissi che era difficile inventarsi qualcosa di nuovo. Col Rinascimento questi paletti vengono tolti e abbiamo questo fiorire di menti libere, in Italia e all'estero, citiamo per esempio Erasmo, citiamo Montaigne, che veramente hanno fatto fare un balzo in avanti alla cultura, hanno portato a Martin Lutero, alla Riforma, proprio perché cerchiamo di ragionare con la nostra testa che ce l'abbiamo e verifichiamo con la nostra testa se le teorie sono giuste, non applichiamo le teorie soltanto perché ci dicono che sono buone. Questo è il grande vantaggio del Rinascimento e senz'altro Guicciardini è uno di quelli che più si astrae da questi problemi, più si distacca da questi problemi. E lui dice chiaramente, cioè, in effetti se avessi potuto essere libero sarei stato luterano anch'io, era, pur avendo servito due papi, forse per quello si era convinto che dal punto di vista sociale, non religioso, ma dal punto di vista sociale la scelta migliore poteva essere quella germanica che non quella del papato. Ci vuole poco a capire, ormai ce ne abbiamo capito tutti, che tutte le teorie politiche che si sono basate su ideologie sono fallite miseramente. Per quale motivo? Perché non hanno tenuto conto della psicologia umana. Voglio dire, il marxismo di per sé, dal punto di vista economico, Marx era un buon economista, ha voluto applicare le teorie economiche al popolo e si è dimenticato che il popolo, se non è contento, non lavora, se non ha la spinta. Ci vuole il bastone e la carota, ma la carota, via dagliela, solo il bastone non funziona e è fallito proprio per questo motivo. E così tante altre dottrine politiche hanno dimostrato la loro inconsistenza pratica proprio quando si è trattato di applicarle all'uomo che era recalcitrante. Ricordiamoci che già uno dei primi filosofi greci, cui mi dimentico regolarmente il nome, aveva detto l'uomo è cattivo e bisogna considerare che fondamentalmente l'uomo è egoista, non diciamo cattivo, ma l'uomo è egoista. Abbiamo questi nostri istinti, che nessuno, animali o animaleschi, che nessuno ci toglierà mai, e guai a non tenerne conto. Per esempio Guicciardini è stato criticato in Italia da uno solo, dal De Sanctis, il famoso critico letterario che ha scritto la storia della letteratura italiana, proprio perché De Sanctis, dopo l'epoca del romanticismo, c'era questa idea della letteratura che ha uno scopo, una funzione, un elevato che deve portare a grandi risultati, e quindi criticava il Guicciardini dicendo questo poveretto è un egoista, un meschino, vuol fare l'italiano, vuole, aspetta, cos'è che dice il De Sanctis, non è che non l'ho citato, dice proprio tipico, è l'esempio del tipico italiano egoista. E il De Sanctis, se ci fosse adesso, si accorgerebbe che l'italiano è rimasto lo stesso identico negli ultimi 6 secoli e che quindi non, è certo, non sono certo gli insegnamenti del Guicciardini che lo hanno rovinato. Una persona che ha invece colto esattamente chi era Guicciardini e che era chiaramente molto superiore a De Sanctis è stato il re Leopardi, il quale nello Sbaldone ha scritto: Guicciardini è forse il solo storico tra i moderni che abbia conosciuto molto gli uomini e filosofato circa gli avvenimenti attenendosi alla cognizione della natura umana e non piuttosto a una scienza politica separata dalla scienza dell'uomo e per lo più chimerica, della quale si sono serviti quegli storici massimi oltremontani e oltremarini che hanno voluto pur discorrere intorno ai fatti, non contentandosi, come la maggior parte, di narrarli per ordine senza pensare più avanti. Frase lunghissima di Leopardi, che se avessi potuto l'avrei trascritta in italiano facendo 3 frasi e diventava molto più leggibile. Qualche volta lo farò. È duro, anche lo Sbaldone, non so se avete mai provato a leggerlo, è duro perché faccio queste frasi, ma mostruose frasi italiche. Ricordate che sapete qual è stata la fortuna del romanzo russo in Europa? Che l'ha tradotto i francesi, i quali le frasi più lunghe, certe descrizioni le tagliavano perché troppo lungo, via le levavano, certe parti le levavano, poi le trasformavano in un francese perfetto, e è stata la fortuna dei romanzi russi, se no saremmo forse ancora poco conosciuti adesso. Dunque, abbiamo fatto questa premessa semplice. Adesso vi parlo ancora vi cito, diciamo meglio, di ciò che hanno detto altri studi molto ben fatti, tanto per capire, per approfondire l'argomento anche su un livello culturale superiore. Io ve l'ho detto terra a terra, ma è tutto giusto, però certe volte piace sentire anche delle espressioni un po' più complicate, anche perché poi i moderni si sono accorti che nel Guicciardini c'era molto che si trova anche in filosofi antichi e in filosofi moderni, che condividevano questo atteggiamento che qualche volta viene chiamato realistico, sulla scia dei filosofi americani viene chiamato qualche volta pragmatismo, oppure pragmaticismo, come aveva detto un secondo filosofo americano, per distinguersi da quello che aveva parlato di pragmatismo. Però sono tutti concordi nel dire che la base e la bontà di quest'opera è il pragmatismo, il realismo. C'è dunque, vi ho detto, questo ve l'ho fatto vedere, il testo, aspetta, c'ho solo una mezza foto qui che ho trovato, è un testo appena uscito nel 2013, veramente fatto bene, si chiama di Battaglia, ha scritto questo libro, aspetta qui. O la stampante mi ha pregato, o ci deve essere anche la foto. Eccolo qui. Martino Michele Battaglia, Francesco Guicciardini tra scienza e politica. Opera veramente fatta bene, se uno è interessato lo può trovare, se lo trovate. Dunque, vi dico qualche frase di questo autore. Guicciardini, nonostante il suo psicologismo storico troppo rigoroso, cioè lo dice, esagera un po' troppo a basarsi solo sull'uomo, è vero, ma lui ha preso questo orientamento, le incoerenze, le contraddizioni che si riscontrano nel suo pensiero, rimane uno dei maggiori storiografi italiani di ogni tempo, dotato di ampia visione della vita e della storia, proteso verso la speranza di un possibile sviluppo della società. Qui lui fa riferimento alle storie fiorentine, quest'opera in 20 volumi, dedicata a un periodo abbastanza breve, 30 anni della storia fiorentina, in cui lui aveva a disposizione tutti gli archivi vaticani e fiorentini, quindi aveva potuto conoscere bene i fatti, e ha fatto tutta questa storia in cui non vuole dimostrare che è meglio l'impero, è meglio la democrazia o è meglio la tirannia. Lui coi fatti dimostra che ogni cosa si è evoluta in un certo senso perché certi uomini hanno agito in quel senso, non perché le vicende fossero particolari, perché c'erano delle persone che per motivi o teorici o personali, perché hanno il cervello fatto alla loro maniera, hanno fatto certe scelte. Voglio dire, parlavo prima con la signora, ricordiamoci che se adesso dobbiamo, lo direbbe, se ci fosse qua lo direbbe Guicciardini, che se adesso dobbiamo valutare, prevedere ciò che farà Renzi, non so, in materia di immigrati, lui dovrà basarsi sui fatti che ci sono. E poi alla fine decide col suo cervello, cervello da persona arguta, intelligente, bizzarra, non lo so, comunque decide col suo cervello, col suo carattere. Trump, diciamo, che c'è col suo carattere, Trump in America, se dovesse vincere, decide col suo carattere poi. Magari ogni tanto si cavola, se la prende, poi ci ripensa, poi dice una cosa e l'altra, però quello è il suo carattere, e chi dovrà trattare con lui deve tenere presente prima di tutto il suo carattere, non altre cose. E Guicciardini è quello che ha insegnato nella sua storia. E diciamo che sia dai ricordi sia dalle storie si vede che Guicciardini ha una corretta visione della società e dei regimi che possono gestire una società, perché lui dice chiaramente che bisogna puntare, cioè proprio alla in termini attuali, alla società civile, a creare della gente che sappia governare e che sappia decidere per gli altri che non voglia decidere o non possono decidere, e quindi ci deve essere la democrazia compensata da certe forme, appunto, di, che adesso chiamiamolo autoritarismo, perché cioè, se no non possono, chiaramente non possono comandare tutti, ci vogliono delle regole, e quindi lui era abbastanza favorevole a una oligarchia con controllo democratico, che poi non ve lo leggo perché è troppo confuso, andiamo troppo lungo. C'è un testo, non mi ricordo di chi è, ma se no è sempre un'appendice di Battaglia, no? È sempre di Battaglia, che esamina i suoi rapporti con la politica antica e con quella di Aristotele. Già al tempo di Aristotele vi era una tendenza a ritenere che un governo buono come sistema equilibrato fosse quello di Sparta. Sparta era un po' diciamo, non era, adesso diremo nazista, ma no, era, c'aveva quella conseguenzialità logica che certe volte diventa durezza estrema, quella logica estrema per cui avevano diviso la società in gente che lavorava, nell'uomo che faceva, il maschio che faceva il guerriero di professione, la donna che faceva la scuola per diventare l'amministratrice di tutte le economie dello Stato, perché era lei che gestiva la famiglia, l'agricoltura e tutto, e avevano trovato un giusto equilibrio tra queste posizioni estreme. Sono andati avanti 3 secoli diventando una potenza enorme, proprio perché avevano avuto questa conseguenzialità terribile, che è un po' quella dei romani, perché se pensiamo ai romani non si può certo pensare che i romani fossero degli idealisti, che avessero degli ideali. Il loro ideale era: conquistiamo potere, siamo sicuri, facciamo uno stato che nessuno potrà mai aggredire, come vogliamo comandare noi, che è quello che ciascuno vuol fare, dal marito alla moglie ai politici, vogliamo comandare noi. Però non ha mai seguito assolutamente nessun ideale, e hanno conquistato, hanno fatto un impero di 1000 anni, potentissimo. Mentre invece molti che avevano troppe teorie sono caduti appena la teoria ha fallito. Quindi, dicevo, il Guicciardini su questo punto è assolutamente corretto, non dà nessun insegnamento sbagliato, per quello che si può condividere ancora ora. È chiaro che appunto lui sarebbe stato un nemico giurato di filosofi come Hegel, come Marx, che avevano delle grandi teorie, qualche volta incomprensibili, scusate, io non sono detto, c'è qualcuno qui che ama la filosofia, perché io l'ho sempre odiata, perché le cose che non riesco a capire non riesco neanche ad impararle, quindi l'idealismo non l'ho mai imparato, però so cosa volevano, e il pensare come Hegel che ci sia qualche spirito, non Dio, ma qualche entità, nella storia ci sia qualche cosa che si autogoverna, si autogestisce, che guida tutto, diciamo che è ben lontano da essere stato dimostrato. Dunque. Ecco, perché, l'ho detto prima, lo ripeto, perché la storia, quei libri della storia di Guicciardini sono così importanti? Perché in essi ha applicato tutte quelle regole, cioè lui nella storia ha spiegato che tutti gli avvenimenti avvenivano in base a quelle regole che poi lui ha esposto nei suoi ricordi, per cui queste due opere si compensano e si integrano, perché leggendo i ricordi si capisce perché lui ha dato un'interpretazione particolare della storia del suo tempo. E dunque, egli apparentemente sembra guardare al presente, a non vedere mai oltre il momento e lo scopo contingenti, limitandosi a formulare osservazioni, giudizi critici, obiezioni ad eventuali soluzioni, man mano che la realtà storica e politica contemporanea gliele offre l'occasione. In ciò Guicciardini, sulla scia del filosofo greco Protagora, si dimostra un pioniere e un precursore di quel pragmatismo intellettuale positivo come evolutosi in America alla fine dell'Ottocento attraverso figure come quello di William James, quello del pragmatismo, di Charles Sanders Peirce, quello del pragmaticismo, ed altri del Dewey, noti ma un po' trascurati. Qualcuno ha trovato persino punti di contatto con Nietzsche, Willy Durant, durante quello, sapete, che ha scritto quella storia dell'umanità in 15 volumi, tradotto in italiano, ce l'ho anche a casa, però l'ho letta poco, e in particolare hanno trovato persino paralleli con Karl Raimund Popper, il famoso filosofo che ha fissato le regole della logica moderna, di come si deve, come il pensiero funziona, è un fondamentale. E quindi questa posizione antistorica, che è quella che ha voluto il Nietzsche, il Durant e il Popper, si ritrovano proprio nel Guicciardini. Di Aristotele ne abbiamo già parlato, quindi va bene. Perché adesso volevo leggervi qualche brano, visto che abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, poi qualcuno ha dei problemi in particolare. Ho studiato, quindi fai le domande. Adesso leggiamo qualche brano che ho preso, sono numerati. Questo esempio, vediamo un po' sui politici, vediamo cosa dice sui politici. Cittadini utili ed encomiabili, questa è la traduzione ovviamente non originale, sono quelli che desiderano onore e gloria nelle loro comunità, purché non cercano di ottenerli attraverso prepotenze o fazioni, ma sforzandosi di essere stimati come buoni e saggi e purché operino per il bene pubblico. E Dio volesse che la nostra Repubblica fosse in vetta a questa loro ambizione. Sono invece dannosi quelli che hanno per scopo solo la propria importanza, perché chi ha in mente solo la propria grandezza e il potere non ha più alcun freno, né di giustizia né di onestà, ed è pronto a sfruttare ogni cosa ed occasione pur di raggiungere il suo scopo. Gli antichi stimavano molto il proverbio magistratus virum ostendit, cioè la carica pubblica fa scoprire l'uomo che la ricopre, perché non solo fa capire se è un uomo di valore o da poco, ma anche perché dandogli potere e libertà di operare si scoprono i difetti del suo animo e che tipo di uomo sia. Ciò perché quanto più un uomo diventa importante, tanto meno si frena e si preoccupa di farsi guidare dalla storia. Poi, questo è un metodo che usava, dice, cioè, lui era stato mandato come segretario di Stato dal re Don Ferrando d'Aragona, che era all'epoca, lui era giovane, era un po' stato il suo esempio di riferimento, e ogni tanto lo cita perché questo era uno intelligente. Diceva: il principe, ho potuto capire che quando voleva iniziare una nuova impresa o altra cosa importante non la rendeva pubblica o la esponeva, ma faceva il contrario, cioè stava zitto, con arte, prima che si capisse ciò che lui aveva in mente, spargeva la voce che sarebbe stato bene che il re per tali motivi facesse qualcosa. Quando poi diventava pubblico che lui voleva proprio fare ciò che la gente sembrava giusto di fare, è incredibile con quanto favore e con quante lodi fossero accolte le sue decisioni. È un po' quello che i francesi chiamano il ballon d'essai, che basta lanciare. Ricordiamoci, per esempio, a me piace fare gli esempi anche concreti, che attualmente quando il popolo viene mosso facilmente, certe parti del popolo vengono mosse facilmente dalla media, internet, Facebook e queste cose qui. Ricordiamoci che Obama mi pare che avesse speso 3 milioni di dollari soltanto per fare una pubblicità, per avere degli esperti che seguivano ogni giorno qual era l'opinione della gente su tanti piccoli argomenti, e lui il giorno dopo, quando sapeva che la gente gli piaceva una cosa, diceva: ecco, faremo questa cosa. E è un po' quello che, ricordate che Casaleggio con Grillo ha usato esattamente questo sistema, perché era esperto di queste tecniche di sondaggi dell'opinione quasi quotidiane e di adeguamento rapido del politico alla bandiera per cogliere sempre il favore della gente nell'ultimo istante. Perché ce n'era uno bello, vabbè, il sistema del bastone della carota è tanto ovvio che ve lo risparmio. Poi questo, vabbè, sembra che l'abbia scritto adesso, dice: oh mio Dio, vi sono molte più ragioni per prevedere che la nostra Repubblica venga meno ben presto che per prevedere che dura lungo. Ma non si riferiva a noi, anche se era una cosa intelligente, non si riferiva a noi. Chi ha il compito di comandare sugli altri non deve avere troppa discrezione o troppo rispetto nel comandare, non che debba astenersene, ma un eccesso è nocivo. Ora, ricordiamoci che appunto il problema dell'Italia è che da 60 anni abbiamo la politica di accontentare tutti, per cui in effetti non si comanda più, perché si cerca solo qual è la soluzione migliore perché nessuno sia scontento, che è il contrario di comandare, vuol dire alla fine non decidere nulla o decidere solo delle mezze misure, è ciò che si verifica quotidianamente. Questo è un consiglio che può servire. I cittadini che vivono in una repubblica in cui la città gode di una situazione tollerabile, anche se con qualche difetto, non devono cercare di cambiarla, perché quasi sempre si peggiora. Non è nel potere di chi opera il cambiamento di far sì che il nuovo governo corrisponda poi alle aspettative di chi lo ha eletto. Questo. E poi ce n'è un'altra che lo troviamo subito. Sembra che non lo trovo. È perché ho fatto l'occhio a un certo schema, adesso lo troviamo. Vabbè, questo principio anche di psicologia, non combattere mai con la religione né con le cose che sembrano poter dipendere da Dio, perché questa materia ha troppa forza nella mente degli sciocchi. Provate a combattere adesso un vegano e vedete che vi picchia, vi rovina, vi massacra, perché sono certe cose sono diventate delle fedi. Non che ci sia un male a essere vegani, ciascuno è libero di fare quello che vuole, è un male pensare che sia un principio di fede sacro, inviolabile, a cui anche gli altri devono adeguarsi, no? Ciascuno fa quello che gli piace, dovrebbe essere questa la democrazia. Questi miei ricordi sono basati su regole generali che si potrebbero scrivere in un libro, ma vi sono tanti casi speciali con una loro logica che impone di affrontarli diversamente e con regole che è meglio scrivere nel libro della decisione caso per caso. È il suo principio generale che dice: guardate, io anche ai nipoti, io ve lo dico queste cose, però state attenti che la regola generale può essere sbagliata, bisogna sempre andare a cercare il particolare. Allora, ecco, questo è sì. Se tu desideri che non si sappia che tu hai fatto o cercato di fare una cosa, anche se sei scoperto e la cosa si divulga, farei sempre bene a negarlo, perché contestare decisamente, anche se può non convincere chi ha indizi del contrario o crede al contrario, quantomeno gli fa sorgere dei dubbi nella mente. Voi vi ricordate Scaloia che aveva un appartamento pagato da altri, cioè io non sapevo mica che me lo pagasse un altro, aveva letto Guicciardini. C'è il figlio di Bossi che dice: ma io non sapevo mica di essere laureato. Ecco, queste non so se l'ho letto, ma sono le regole implicite, pare, in ogni mentalità politica, che impara su bisogno. L'importante è negare, perché qualcuno ci crede, poi alla fine dopo c'è sempre il dubbio. Anche nel processo penale, in effetti, guai se uno confessa, è rovinato totalmente. Come dicevo una volta, tu prega San Nega che è il migliore. San Nega è il migliore in ogni caso, te nega sempre che qualcuno poi può sempre crederti. Ecco qui, non datevi da fare in politica per dei cambiamenti che non partoriscono altro che nuove facce, non ci siamo abituati. Tu che vantaggio ne hai se quei danni o dispetti che ti faceva Piero te li farà Martino? Ad esempio, che piacere puoi mai avere di veder partire dalla città Messer d'Oro se al suo posto arriverà un altro uguale a lui? E questo è il dramma dell'Italia, che non sappiamo più per chi votare, perché intanto sappiamo che cambiano le seggiole, ma le facce girano e sono sempre quelle. Guardate cosa aveva detto in materia di giustizia, che siamo giusti in materia di giustizia, che è una cosa sacrosanta. Non si può valutare in modo del tutto negativo la giustizia civile dei turchi, che spesso è più precipitosa che sommaria, perché dice: che hai fatto? Ha tagliato la testa e ha risolto il problema. Perché anche chi giudica ad occhi chiusi è verosimile che riesca ad azzeccare la decisione di metà delle cause. Dice una volta con la moneta, si è sicuri che almeno il 50% delle cause sono decise in modo giusto. E in questo modo risparmia alle parti perdite di tempo e di denaro. Ma i nostri giudici comportano in modo tale che spesso a chi ha ragione converrebbe che la sentenza gli desse torto il primo giorno della causa, piuttosto che attenderla dopo un enorme dispendio di tempo, ansia e disturbo. In Italia sei sempre. Senza tener conto del fatto che da noi, o per disonestà o ignoranza di giudici, o per l'oscurità della legge, si finisce per sentenziare che ciò che è bianco è nero. Si potrebbe pubblicare direttamente sul giornale domani dicendo: il Consiglio Superiore ha detto, e andrebbe, se avesse il coraggio di dirlo, e sarebbe la perfetta verità, perché ormai siamo ridotti, lo dico sempre, a questo punto che se uno ha 10.000 euro da spendere è meglio comprare 1.000 biglietti alle gratta e vinci, che forse c'è più probabilità di conservare o aumentare il suo capitale. Questo lo applico a me stesso. Io l'ho detto tante volte e ve lo ripeto: una persona con una buona mente e che sa gestire il tempo non può lamentarsi della vita breve, perché può dedicarsi ad infinite cose e, se sa gestire il suo tempo, gliela avanza anche. Io sono stato proprio di quelli che non ho mai trascurato la famiglia, non ho mai trascurato il figlio, non ho mai sempre fatto i miei studi. Io ho fatto il mio lavoro in maniera perfetta e, ciononostante, sono riuscito a scrivere una ventina di libri. senza trascurare, senza che la mia moglie e i figli potessero lamentarsi, che gli amici chiediamo. Ero rapido, più sì sì, no, me l'avrebbero detto, non erano, me l'avrebbero detto, l'avrebbero picchiato magari. E l'avrebbero trovato. No, perché sono un tipo rapido, faccio l'esempio che io negli ultimi 10 anni ho fatto 3 lavori, giudice fallimentare, sono andato sul giornale come il più rapido d'Italia, ho fatto l'esecuzione immobiliare, ho fatto il tribunale della libertà. Tenete presente che ero sempre il presidente, io non ho mai fatto scrivere una riga agli altri. Quasi tutto il lavoro l'ho fatto dalle 8:30 del mattino a mezzogiorno senza portare il mio foglio a casa. Quando sono andato via, ci hanno messo 3 giudici e non ce l'hanno fatta. Ecco, quello che quando dice, se uno ha la mente che funziona, ce n'è di tempo, si può fare nella vita tutto quello che si vuole. Tu non mi dici che non ho mai tempo. Vuol dire che ti sei organizzato male. Infatti io ai miei colleghi dicevo, io ho troppo lavoro. No, non sei troppo lavoro, te lavori male, non è che non sei troppo lavoro, impara a lavorare e vedrai che lavoro. Sapete che in Italia, particolarmente a Bolzano, c'è la maggioranza dei giudici, quasi il 90%, per qualunque sciocchezza, non so, l'incidente del pedone investito dalla bicicletta, sono capaci di scrivere 30 pagine. Io non ho mai scritto più di 1,5. Non ho mai scritto più di 1,5. Poi adesso col taglio in colla, il taglio in colla del computer, sapete cosa vuol dire, no? Che uno con un computer, c'è uno scritto di 40 pagine, questo lo mette una sentenza, lo sposta nella sentenza, sembra che il giudice abbia scritto 40 pagine, in effetti ha solo fatto il taglio in colla, ma che poi non le legge nessuno, è bello, perché le sentenze, ricordatevi, l'avvocato non la legge perché sa già prima cosa avrebbe detto il giudice, già sì, mi ha dato torto, lo sapevo che mi dava torto, mi ha dato ragione. In appello, guardano solo i motivi d'appello per vedere dove c'è l'errore, in Cassazione ancora meno, e quindi è proprio tempo perso. Poi, ho cercato di, forse non sono un bravo maestro, sono bravo a scrivere, non sono un bravo maestro, per 40 anni non sono riuscito ad allevare un allievo che sapesse scrivere le sentenze di 1,5 pagine. Non ce l'ho fatta. Io ho vinto un concorso di magistratura con 3 temi, scritto sul foglio protocollo che non avevo riempito le 4 facciate. Della gente portava un pacco di protocolli così, quindi l'hanno bocciata, l'hanno promossa. Ma boh. I fatti del passato illuminano la strada a quelli futuri, perché il mondo non cambia e tutto ciò che è e che sarà è già accaduto in tempi precedenti e le stesse cose ritornano sotto nomi e colori diversi. La maggior parte però non le riconosce e solo chi è saggio sa capirle e valutarle. Qui si dice, allora è in contrasto con quello che diceva prima. No. Gli eventi tornano le guerre, tornano i tradimenti, tornano le passioni, però attenzione che poi dietro c'è sempre un uomo e bisogna tenere presente il quadro generale dei movimenti umani e dei movimenti della società, però si passa dalla democrazia al dittatore, all'oligarchia, però se funziona poi bene o male bisogna andare a vedere che uomo c'è dietro e come concretamente agisce. Allora, avevano un cattivo concetto del popolo, ma effettivamente forse non c'aveva molto torto. Chi parla del popolo parla veramente di un pazzo, perché esso è un essere mostruoso, pieno di confusione e di errori, e le sue vuote opinioni sono tanto lontane dalla verità quanto, secondo Tolomeo, la Spagna dall'India. Se però fate pensiero a come adesso una massa enorme di persone può essere governata da qualunque bufala pubblicata su un giornale o pubblicata in internet, a cui la leggono in 30 milioni e 20 milioni ci credono ciecamente per qualche giorno, e veramente c'è da avere dei dubbi su che cosa sarà il mondo futuro. Io sono sempre convinto che il miglior teorico del mondo futuro sia stato Aldous Huxley nel suo libro Il mondo nuovo, mi pare del 1937, che è stato veramente profetico, perché lui aveva scritto questo libro dicendo in cui prevede la società del futuro dopo 200 anni e dice ci sarà la casta di quelli che governano, comandano i capi, poi ci sarà una sottocasta di amministratori importanti e capaci, e poi ci sarà il popolo che, come al tempo dei romani, sarà felice e contento di mangiare, di avere la tessera a punti per il sesso, come quel tesserino per il bar, e alla mattina gli danno la pilloletta di ansiolitico per tenerlo felice, avranno scoperto la pilloletta per tenerlo felice tutto il giorno, cioè il pane mentre circense dei romani proiettato nel futuro. Nel 1900 58, 60 circa, 58, ha dovuto fare un supplemento del libro dicendo: guardate che io vi ho detto fra due secoli, ci siamo già, mi sono sbagliato, il progresso è stato talmente rapido che ci sono già. E perché siamo? Perché? Perché appunto il senso si è diffuso talmente che non è più un problema, salvo perché è malato di mente, che sono arrivati gli ansiolitici e le medicine, che fra un po' la gente non sarà più depressa, lavoro più o meno, riusciamo a dare da mangiare a tutti, e come spettacolo, l'aveva già capito lui, si è aggiunta il cinema. Non sapeva che poi sarebbe arrivata la televisione 10 volte peggio e internet 100 volte peggio, però lo ricordo, penso che sia stato un grande del pensiero. Quello che pensava della religione: io ho sempre desiderato, per mia inclinazione, la rovina dello Stato ecclesiastico. Lui ha servito due papi, come ho detto prima, li ha serviti con coscienza, onestà, ricevendo le grandi elogie di conoscimento, quindi da fedele servitore, però dentro di sé vi vorrei far sparire. Ma la sorte ha voluto che vi siano stati due pontefici tali, cioè erano i due papi che venivano dalla famiglia dei Medici, che io sono stato costretto a desiderare la loro grandezza e a darmi da fare per sostenerli. Se non fosse stato per questo dovere, amerei più Martin Lutero di me stesso, nella speranza che la sua religione, dico male stasera, ho parlato troppo, che la sua religione possa rovinare o almeno tagliare le ali a questa scellerata tirannide dei preti, che all'epoca comandavano veramente, c'era un'oppressione totale. Siamo arrivati alla fine, quasi perfetto. Anche questo spiega perché tanta gente non fa politica. Io sarei pronto a cercare di cambiare il governo di quegli stati che non mi piacciono, se avessi la speranza di poterci riuscire da solo. Ma quando vedo che devo associarmi ad altri, il più delle volte pazzi o malvagi, che non sanno tenere la bocca chiusa e non sanno agire, mi spavento solo per averci pensato. L'ultimo sulla legge, perché come giudice devo concludere sulla legge. È nostra antica usanza che quando vogliamo rimediare ad una legge o una cosa che ci dispiace, che vi provvediamo col fare o disporre tutto il contrario, col risultato poi di trovarci con altri difetti e di dover fare una nuova legge o altre disposizioni per rimediare a quello che abbiamo fatto. Questo è il motivo per cui ogni giorno facciamo nuove leggi, perché cerchiamo più di sfuggire ai mali attuali che a trovare un rimedio permanente ad essi. E anche quello fu, pensate, ricordate la legge Merlin, grande, cancelliamo tutto, cambiamo tutto, e da allora si è avuto solo guai. Si poteva regolare bene senza creare assolutamente nessun problema, anzi si sarebbe potuto controllare molto meglio, perché in sostanza la legge Merlin, ottima come spirito, però non ha assolutamente tutelato la donna dallo sfruttamento, anzi ha favorito quello peggiore. Nessuno ha mai fatto niente. Poi si arriva all'assurdo, voi sapete che, tanto per finire con le barzellette, che la Cassazione una volta ha avuto questa bellissima sentenza: un signore carica una signorina sulla macchina, vanno nel boschetto e poi la riporta vicino alla gomma dove l'aveva presa. L'hanno condannato per favoreggiamento della prostituzione per aver accompagnato la donna sul luogo del lavoro. La doveva lasciare nel bosco abbandonato. E mi ricordo un caso di Bolzano, che era una persona che lavorava nel tribunale, che era uno lì che abitava nella zona popolare, che conosceva una famosa di Bolzano che tutti conoscono, non faccio il nome perché non, poveretta, non merita, faceva un'opera benefica, che era vecchia e quindi gestiva sempre qualche prostituta eccetera, e cercava una casa, un appartamentino per queste due ospiti. E lui, con la speranza di cucare soltanto, non voleva soldi, niente, diceva: vabbè, la cerco io. Gli ha trovato un appartamento pagato regolarmente, l'affitto e tutto. Poi l'hanno condannato per favoreggiamento della prostituzione, per essersi intromesso per trovare una casa alla prostituta, come se questa non potesse avere una casa, tra l'altro. E vabbè, la Cassazione questa cosa l'ha capita. L'ultima sentenza di recente ha detto chiaramente che non commette sfruttamento della prostituzione chi affitta un locale, abitazione, negozio che sia, a prezzo di mercato. Cioè uno ha un appartamento, lo affitta e non deve preoccuparsi di che cosa viene nell'appartamento, purché non ci speculi sopra. Cosa logica, ci è voluto, legge Merlin, cos'è, dal 56 lo so perché avevo 16 anni, da 56 ad oggi ci ho voluto 60 anni, 50 anni per arrivare a stabilire una cosa così logica, che per Bolzano potrebbe essere una soluzione. Con tutti quei negozi vuoti che ci sono, si potrebbe trasformare in Amsterdam. Adesso non ci sono più ostacoli, altro che cacciarle via dai portici. Bisogna trovare una sistemazione nei negozi, tra tante zone che nei negozi vuoti. Vi ringrazio per l'ascolto, spero di non avervi annoiati.